Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile. Il terzo orgasmo, rubrica di cultura letteraria lesbica femminista, presenta. Lesbiche di scrittura, riflessioni, rifrazioni di desiderio attorno al corpo del testo. Welcome, welcome, welcome to At Weeting Into In Throg and Around the Third Orgasm. Because we are the real third orgasm. Ecco, questo moto di orgoglio narcisistico che avete appena udito è di Nenzini. Vivace maestra elementare, attempata dalle traversie sentimentali più che dall'inesorabile scorrere della vita, che ha da poco superato, oibò, un esame d'inglese. Nenzini, sì, proprio quella che conoscete. Proprio lei che per anni vi ha intrattenuto storpiando tutti i titoli possibili delle scrittrici straniere che citiamo. Ecco, Nenzini, ipsa, gli ha dato teste saggio delle sue rinnovate abilità linguistiche. Yeah, I am the more beautiful lesbian woman in the world. Uè, Miss Delizia Saffica, mo rimettiamo a posto lo specchio. Oggi parliamo di ben altre riflessioni. Sì, vrai. Hai become a poliglotta lesbian woman. Vabbè, eccomi. Oggi è la nostra ultima puntata dell'anno e, come accade alla fine di ogni anno, si fa un bilancio di quanto ci è accaduto. Che ho fatto? Dove sono nata? Con chi sono stata? E soprattutto, perché ci sono stata? Miss Delizia Saffica, dotatasi di corna, ti ricordo che non possiamo star sempre carina, qui . A cincischiare sulla tua vita privata. Vedete, quando ci si ritrova dopo le sventure a fare i bilanci con le amiche più care, cosa succede? Succede che ti mettono davanti lo specchio della realtà e non quello della menzogna. Sì, perché il tuo è uno specchio che amplifica i miei difettucci per farne delle deformità. Per fortuna mia. Only me. Solo io, traduco, perché ancora non ha dovuto sostenere la colonizzazione linguistica. No. Conosco. Deeply. Profondamente. My true blue, come cantava Madonna. Ovviamente tutte avrete capito l'argomento della puntata odierna, no? Lesbiche di scrittura, è chiarissimo. Scusate, c'è un attimo di... Quindi dicevamo che tutte avete capito naturalmente il... cioè, tutte avete capito che abbiamo un po' di problemi tecnici, ma adesso risolviamo. Ti, non ne può più. Ok, abbiamo proprio sderenato tutto l'amplificatore qui, tanto per tagliare la testa al toro. No, dicevo che ovviamente a tutti avete capito l'argomento della puntata odierna, mi pare evidente. Lesbiche di scrittura, è chiarissimo. Ha fatto venire a tutti in mente quella, diciamo, sì, quella, ma dai, non vi viene il nome, è famosissima, l'hanno letta tutte, tutte ne parlano. Pensa che pure oggi, mentre facevo la spesa, una con il carrello girava con indifferenza tra gli scaffali mentre la leggeva. Sì, lei, Nicole Brossard, e il testo di cui ci occuperemo oggi è La lettera aerea. Mi raccomando, da non confondersi con La lettera scarlatta, La lettera sull'intolleranza, La lettera muta, La lettera di licenziamento e La lettera dell'avvocato di risposta alla lettera dell'amministratore in risposta alla vostra lettera di condomino con cui avete denunciato dissequità di trattamento. No, Qui stiamo parlando della lettera aerea di Nicole Brossard, capolavoro della letteratura lesbica. Che voi tutte, piccioncine viaggiatrici che navigate in internet, potrete leggere e rileggere anche molte volte, perché diciamolo, non è proprio un libro facile facile, in formato ebook al seguente indirizzo: www.leswiki.it. Appropriatevene, è gratis. Fine pubblicità palese. Ma vediamo di capire chi è l'autrice e soprattutto che cos'è questo libro, che in realtà è una raccolta di diversi testi, dalle parole di Brossard stessa. Credo che ci sia una sola spiegazione per tutti questi testi. Il mio desiderio è la mia volontà di capire la realtà patriarcale e il suo funzionamento, non per se stessa, ma per le sue conseguenze tragiche nella vita delle donne. Ci sono nella lettera aerea 10 anni di collera, di rivolta, di certezza, di convinzione, 10 anni in cui ho combattuto contro quello che fa barriera all'energia, all'identità e alla creatività delle donne. 10 anni di curve, di graffiti, di cancellature e di scrittura, al fine di esorcizzare la cattiva sorte. Qui tutto è teso verso la scrittura e il linguaggio. Mi piace pensare che la lettera aerea è questo spazio critico in cui impariamo a vedere la natura dei nostri desideri, al rallentatore e in accelerazione, nel dettaglio e nell'insieme. Das war noch gar nichts, sag ich dir. Das kommt noch dicker. Das war gewiss erst einmal nur die Ouvertüre. In der Tragödie gewissenloser Pflücke haut mancher voll ins Volksklavier. Wir werden Augen machen, sag ich dir, und welche. Man hat uns längst schon eingesteckt und ausverkauft. Wir werden dreinschauen wie betrogene Südpolelche. Wenn wir erwachen, sind wir auch schon umgetauft. Du bist ein Trottel, wenn du träumst von starken Händen. Die starken Hände, sag ich dir, schließen uns aus. Um uns zu fangen, müssen sie uns erstmals blenden. Das ist doch logisch, Mensch, sonst nehmen wir Reis aus. Es ist wie Gas, unsichtbar und schleichen. Geruchlos und so still wie Gas, so unheimlich und weise. Wie Gas ist es und wir sind sein Ventil. Es ist wie Gas. Das war noch gar nichts, sag ich dir, das kommt noch Ärger. Mit den Visionen bin ich leider nicht allein. Gefährlich aber sind die vielen Drückeberger. Mutierte nicht so manche Kirchenmaus zum Schwein. Glaubte nicht viele schon an mundgerechte Sätze. War's nicht verrückt genug, was dann daraus entstand. Gehen wir unbelehrt schon wieder in die Netze. Wird denn der Rattenfänger Absicht nicht erkannt? Wir sind doch Werkzeug nur für die, die uns betören. Und jene wissen um die Blödheit, die uns ziert. Wollen wir wieder fühlen? Wollen wir dich hören? So ist doch mehr als klar, wer wieder mal verliert. Es ist wie Gas, so unsichtbar im Schleichen. Wie Gas, geruchlos und so still. Wie Gas, so unheimlich und weichen. Wie Gas ist es und wir sind sein Ventil. Es ist wie Gas. Nicole Broussard è una poeta, narratrice e saggista canadese, francofona, nata a Montréal nel novembre del 1943. Ha cofondato nel 1965 la rivista letteraria La Barre du Jour e nel 1976 il giornale femminista La Tête des Pioches. Ha co-realizzato il film Some American Feminist nel 1976. Nel 1991 ha pubblicato insieme a Lisette Girard Antologie de la poésie des femmes au Québec. Il mio francese. E nel 2002 l'antologia Poème à dire la francophonie. Nel 1991 le è stato conferito il Prix Athanase David, la più alta onorificenza letteraria del Quebec, e nel 1994 è entrata a far parte dell'Académie des Lettres du Québec. È stata definita l'emblema stesso della nuova scrittura quebecchese. Broussard ha pubblicato una trentina di libri, tra i quali, ricordo a tutte le ascoltatrici che mi sto avviando al polilinguismo, raccomandiamo pertanto alle più sensibili di voi di pararsi le orecchie. Taci, cattivissima te. Quindi ricordiamo le Sainte Blanche. La Sainte Blanche. Blanc, vabbò. La lettera Rienne, che vabbè, è quella, la Rienne, che è quella che stiamo, vero, di cui stiamo parlando. Le Désert Mouvé. No, cos'è? Ma perché me le date a me da leggere? Io non lo so. Questa è cattiveria. Quando le amiche. Le Désert Mauve. Le Désert Mauve. Procedi. Sapete come si legge? Hir. No. Cahier de Rose de Civilisation. I più recenti solo Je m'en vais a Trieste, infatti io m'en vais proprio, e L'Horizon du Fragment del 2004. Ha preso anche un sacco di premi che però ve lo scordate quali sono, perché io non ve li leggo. Cattiva. Ecco. Questa è la degna fine del mio francese. Il passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit. Lei sì che lo sa il francese. M'aimes encore, c'è quelqu'un qui m'a dit. Ebbene, l'ho voluta io questa canzone, dovete sapere. Encore, serait-ce possible alors? Questo lo so fare anch'io in francese. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que mi fa leggere il francese. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Questo mi viene. Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas, je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Piuttosto, che c'entra il bilancio di fine anno con questo libro e con il titolo che abbiamo dato alla puntata? Non lo so ancora. Andiamo bene, Genzini, e quando lo saprai? Lo scopriremo frammentariamente. Ecco, Genzini ce la siamo persa alla sua botta misterica. Speranza di svegliarsi al silenzio di sé e al tumulto insieme. Sbocco fuori di me. Che vuol dire? Io, me, ciò. Non arrivo a rinunciare da me a ciò. Vi devo avvisare, dovete sapere che ogni tanto le succede così di andare fuori de capoccia, ma quando capita di solito si chiude in casa e non parla con nessuno, né tantomeno in radio. La tavola di salvezza è capire l'energia interiore, quindi il rapporto di forza, tracciare davanti a noi le parole. Ecco, io non te lo vorrei dire, ma quasi quasi te lo dico perché sono cattiva quanto te. Il mio inglese è molto più chiaro. Diversi stati in me, piena di invasioni, piena di insurrezioni. Sono contenta. Si inchiostra sul foglio, segni di ciò che ama, guarda e tocca. Io inseno il ghiaccio a farlo fondere, a sentire il fogliame gonfiarsi, suscitarsi, prendersi tempo. Ecco, brava, prendiamocelo un po' di tempo. Hai mangiato abbastanza? Respira. Inspirare, espirare. Quelli che ho letto sono frammenti tratti dalla lettera aerea. Potevi anche dirlo prima, no? Ma così te ne esci, mi porevi una posseduta, mi stavo preoccupando. In effetti, Brossard è in certi passi criptica, quasi inaccessibile, richiede dei ritorni, dei rimandi, processi di rilettura e di immagazzinamento, richiede vicinanza, una comunicazione continua con se stesse. Dunque, mettetevelo sul comodino. Quattro paroline la mattina appena vi alzate, quattro paroline la sera prima di andare a letto, due paroline durante ogni pasto. Attenzione però, che se ne fate più di 15 di pasti al giorno, come Genzini che sta sempre con le ganasce in movimento, rischiate intossicazioni acute e ecco, rischiate di proferire, come dire, nonsense. Nel 1975 Brossard apre il convegno internazionale degli scrittori, organizzato annualmente dalla rivista del Quebec Liberté, il cui tema era le donne e la scrittura, ribadendo quanto sia importante che le donne scrivano. Dice Brossard: per me ciò che è importante oggi è che le donne scrivano, consapevoli che la loro differenza deve essere esplorata nella conoscenza di loro stesse, divenute soggetti, e per di più soggetti coinvolti in una lotta. Esplorare questa differenza è necessariamente inscriverla in un linguaggio che mette in questione il sessismo delle lingue che parliamo e scriviamo. Così facendo, inauguriamo nuovi luoghi per la scrittura e la lettura. Con questo fatto inscriviamo nella cultura una letteratura del non detto. Una letteratura non detta e non autorizzata. Ma torniamo alla lettera aerea di cui vi abbiamo già dato un assaggio. Il libro è così strutturato: abbiamo una raccolta di 12 testi teorici scritti tra il 1975 e il 1985, disposti in ordine cronologico e pubblicati nel 1985. Ogni testo è seguito da un passo dell'opera poetica che Brossard stava scrivendo in quello stesso periodo. C'è quindi una continuità molto forte, originale e inedita come linea di sviluppo, tra teoria e poesia. Il femminismo è la teoria. La poesia non può essere femminista, sarà necessariamente lesbica. Per Brossard, il linguaggio e la scrittura sono luoghi necessari e imprescindibili per le lesbiche. Capitolo 9. Lesbiche di scrittura. A priori non tutti scrivono e tutte le donne non sono lesbiche. Abbiamo quindi a che fare con due modi esistenziali che si iscrivono l'uno e l'altro in margine al corso normale normativo della lingua e dell'immaginario, e di conseguenza in margine alla realtà e alla finzione. Ma prima di andare più lontano, vorrei proprio all'inizio porre la domanda: che cosa occorre per scrivere? In modo globale, direi che per scrivere occorre: A. sapere che si esiste. B. avere di sé un'immagine cattivante e positiva. C. rispondere alla necessità interiore. D. sentire una profonda insoddisfazione davanti al discorso maggioritario e inglobante. Per riassumere: per scrivere occorre essere soggetto in movimento e in ricerca. Per scrivere occorre prima appartenersi. Scrivere, secondo Brossard, è una pratica di resistenza importantissima per le lesbiche. Ogni giorno la normalità e normatività a cui siamo soggette quando usciamo di casa e nei rapporti con gli altri ci impone dei codici che ci allontanano da noi stesse, dalla nostra energia vitale, da quello che conosciamo e scopriamo attraverso il nostro corpo. La scrittura ci aiuta a metterci in contatto con noi stesse, ad esplorarci. In questo senso diventa pratica di resistenza. Attraverso la scrittura le lesbiche possono reinventare il mondo, ovvero reinventare il senso, scrive infatti Brossard. Quando dico che ci mettiamo letteralmente al mondo, voglio proprio dire letteralmente. Letterale vuol dire che è rappresentato con delle lettere. È ciò che è preso alla lettera. Prendiamo alla lettera quello che sono i nostri corpi, le nostre pelli, il sudore, il piacere, la sensualità, il godimento. Sono queste prime lettere che formano l'inizio dei nostri testi. Prendiamo anche alla lettera la nostra energia e la nostra abilità, rendendo così il nostro desiderio come una spirale che può metterci l'una e le altre in moto verso il senso. Un senso di cui siamo all'origine e non un controsenso di cui saremmo a rimorchio come piccole stelle filanti nel grosso cosmo patriarcale. Simbolicamente e realmente, credo che solo le donne e le lesbiche potranno legittimare la nostra traiettoria verso l'origine e il futuro del senso che facciamo avvenire nella lingua. Essere all'origine del senso significa che quello che noi proiettiamo di noi nel mondo somiglia a quello che siamo e scopriamo di noi, e non alla versione autorizzata che il marketing patriarcale ha fatto di noi, in persona e in poster gigante. Scrivere per una lesbica è imparare a togliere i poster patriarcali dalla stanza, è imparare a vivere un po' di tempo con i muri bianchi, è non aver paura dei fantasmi che prendono il colore del muro bianco. E, in termini più letterari, rinnovare i paragoni, stabilire nuove analogie, rischiare certe tautologie, certi paradossi, e mille volte ricominciare la prima frase, a rose is a rose, o pensare, come Juna Barnes, che un'immagine è una sosta che fa lo spirito tra due incertezze, e assumere il rischio di avere troppo da dire e non abbastanza, e rischiare di non trovare le parole giuste per dire con precisione quello che siamo le sole a poter immaginare. Credo che l'amore folle tra due donne è talmente inconcepibile per lo spirito che per parlarne o per scrivere quello in tutte le sue dimensioni occorre quasi ripensare il mondo per capire quello che ci succede. E non possiamo ripensare il mondo che con parole. Quindi l'amore lesbico mi sembra essere intrinsecamente un amore che supera largamente la cornice dell'amore. Quello che c'è in noi e che ci supera, ecco uno degli enigmi che riguardano la scrittura, la narrazione e soprattutto la poesia. Yeah. Detto questo, mi sembra che per andare incontro a quello che sono, le lesbiche hanno bisogno di un letto, di un tavolo da lavoro e di un libro. Un libro che dobbiamo leggere e scrivere nello stesso tempo. Questo libro è inedito, ma se ne conosce già una lunga prefazione in cui troviamo i nomi di Sappho, di Gertrude Stein, di Juna Barnes, di Adrienne Rich, di Mary Daly, di Monique Wittig. In più, questa prefazione contiene un certo numero di annotazioni biografiche che raccontano il senso di colpa, l'umiliazione, il disprezzo, la disperazione, la gioia, il coraggio, la rivolta e l'erotismo delle lesbiche di ogni epoca. Il libro è bianco, la prefazione fa sognare. Una lesbica che non reinventa il mondo è una lesbica in via di sparizione. Quanta verità c'è in queste parole. E l'importanza che Brossard assegna alla scelta di ciascuna parola fa di ogni frammento, di ogni frase, quasi un corpo solido, un prezioso tesoro da portarsi sempre dietro e da tirare fuori e riguardare. L'importanza delle parole è approfondita nel successivo capitoletto. Capitolo 10. Certe parole. Tra le peggiori disgrazie, le più audaci notti di adorazione, la morte tragica, le pelli più dolci, sulla riva del mare, vestite di un corpo utopico e di estasi, noi avanziamo nel risalto delle parole. Vestite di un corpo di donna, pazientiamo sul bordo delle pagine, in attesa di una presenza femminile. Giriamo le pagine con le nostre dita bagnate. Attendiamo che la verità esploda. Da una lettura all'altra le parole si danno il cambio, come per mettere alla prova il nostro resistere attorno a un'idea fissa, attorno ad alcune immagini che abbiamo di noi stesse e che si applicano a noi solo nello spazio fittizio della versione che diamo della realtà. Da una lettura all'altra favoleggiamo attorno al nostro desiderio, che è di identificare ciò che ci entusiasma e che ci immerge in un tale stato di fervore indescrivibile. Quando questo fervore si impadronisce di noi, ci diciamo catturate dalla nostra lettura e avanziamo lentamente, precipitosamente verso il nostro destino. Il nostro destino è come un progetto, una vita tessuta in noi da innumerevoli righe, alcune delle quali sono dette linee della mano che tiene il volume. Queste linee innervano l'intero nostro corpo come una logica del pensiero dei sensi. In piena lettura riconosciamo di essere la causa e l'origine dei volti e dei paesaggi che ci circondano. Infatti ci riferiamo ad essi come ad un'infanzia, un desiderio, un'attrazione. In piena lettura sentiamo mormorii, suppliche, gridi. Sentiamo la nostra voce che cerca il suo orizzonte. But the night covers my soul. My body's frozen and my heart is cold and still. So much about me is wrong. I search for a place to unthaw. Something in me puts love into fear. It veils my vision, leaves my thoughts unclear. My eyes from blue turn to gray, hoping to mask what they say. I've been outside myself for so long. Any feeling I have's close to gone. I've been outside. in a storm of the sun, basking senseless to what I've become, a fool to worship just light. When after all it follows night, I've been outside myself for so long. Any feeling I had close to gone. I've been outside myself for so long, so accade che in piena notte ci svegliamo per rileggere un passaggio e rivedere delle donne che desideriamo. E mentre rileggiamo il passaggio sottolineato, c'è nel nostro petto una sensazione indescrivibile che ci tiene sveglie fino all'alba. All'alba il nostro spirito è stravagante, erra in zone proibite e non abbiamo altra scelta che esplorarle. Mi hanno detto che delle donne scrivono all'alba quando sono in questo stato. Mi hanno detto che a volte scoppiano in singhiozzi. Conosco i ritmi della voce, conosco i suoi soprassalti, conosco l'avventura e l'esperienza dello sguardo. È ciò verso cui ci slanciamo ad ogni lettura, incredule davanti alla verità che esplode in noi come una memoria dell'ombra e del fervore. Quello che ci anima in una frase o in un'espressione è una decisione dell'essere. Allora è a tutta velocità che ci chiniamo sul testo per raggiungere nel fuoco dell'azione le gesta del nostro desiderio. Ogni lettura intensa è un raggio di azione in cui cogliamo sul fatto l'unanimità che si fa in noi. Quando con dita bagnate giriamo le pagine, passando dal tremore all'estasi, noi affrontiamo l'eternità, credule e atee, davanti alla somma dei corpi, dei crani, degli orgasmi. Affrontiamo l'aldilà dell'insieme e diveniamo la precisione del desiderio nello spazio inenarrabile del cervello. Bene. Quale migliore chiusa di questa nostra puntata e bilancio di fine anno che lasciarci con le dita bagnate in queste splendide pagine? Sì, ci ritorniamo poi sulle dita bagnate. Dunque, ricordo alle bene intenzionate che chi volesse intingere, inumidire, bagnare le proprie dita tra le pagine di Brossard può trovare questo testo sul sito di LesWiki o contattarci all'indirizzo email ilterzoorgasmo@gmail.com con due o di terzo o di orgasmo, che se no non ci arriva. Se poi proprio non volete intingere nel libro, potete sempre intingerle dove siete solite, care ragazze. Ir mėnulyje nevyksta karas, o mėnulyje daug valgyklų, kur nemokamos bandelės, o mėnulyje gyvena elniai. È sua Lina Orlova, che ormai ci accompagna da tempo per la fine delle nostre bellissime puntate. Noi vi auguriamo un happy Christmas a tout le monde. Buona serata, buonanotte, buon Natale, tanti buon Capodanno, buona Befana. Noi ci rivediamo a gennaio del 2014 e anche questo 2013, care ragazze, se lo semo levato da torno. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Kodėl gi broli, tas medalis taip dalis.